sono qui da solo in un posto lontano da te. Una luce c'è laggiù, mi sai dire cos'è? Una candela che brucia, non so perché. Io ti vedo nascosta nell'ombra, ma perché lo fai? Un telo nero lo sa, telo nero, che cosa accadrà? Io ti vedo distante, ma più vicina che mai. Più vicina che mai. Tu lo sai il perché? Io non lo so. Sono qui da solo, chissà dove sei. Io ti voglio con me, senza di te non so star. Chissà che cosa fai, perché senza di te non so star. Un telo nero lo sa, telo nero blu, che cosa accadrà? Io ti vedo distante, ma più vicina che mai. Più vicina che mai. Tu lo sai